iniziative che stanno facendo questi lavoratori e lavoratrici sono encomiabili, grande fermezza ma anche di disponibilità a trovare delle soluzioni, quindi c'è cultura delle soluzioni. Ovviamente hanno particolarità totalmente diverse tra di loro. La Marelli è una multinazionale che fa a precipizio una cessata attività, Industria Italiana Autobus che abbiamo dentro lo Stato ma si è dimenticato il processo industriale, la Perla siamo nella pirateria finanziaria di livello europeo. Adesso prima di parlare di altre crisi in montagna aspettiamo un attimo, ecco, nel senso che abbiamo l'incontro oggi, valuteremo una alla volta, gestiamo tutto, non ne vogliamo perdere neanche una dentro un contesto comunque di grande tenuta, perché non dimentichiamo che questa regione, comunque questa città, ha cultura industriale, imprese stupende, anche multinazionali che fanno investimenti incredibili, e quindi però là dove c'è una situazione di crisi le istituzioni di questa regione ci sono, insieme alle rappresentanze sindacali sappiamo che abbiamo anche relazioni per trovare le soluzioni. Una domanda sulla Perla, ci diceva la delegata che la proprietà ha già detto che non si presenterà al tavolo col ministero. Noi nel nostro ordinamento statale non abbiamo degli strumenti per costringere in questo caso la proprietà a venire a Piumiti Consiglio, comunque non avere questo atteggiamento latitante? Sarebbe un fatto incredibile, un ministero dello Stato convoca il soggetto imprenditoriale che sta facendo un casino senza precedenti, se non si presenta ho il timore che ha deciso di non presentarsi più, ecco, e quindi attenzione, adesso vediamo cosa succede, c'è l'incontro fissato. Certo che quel soggetto, due cose, gli è già stato detto, va bene che si presenti con un progetto industriale di rilancio, ma di progetti industriali di rilancio c'è pieno il mondo, voglio capire come lo sostiene finanziariamente un progetto di rilancio, perché lì senza finanza è totalmente bloccata, e anche il soggetto che ci mette la finanza, perché magari ti presentano dei soggetti che sono dei prestanome ma che dietro non c'è niente. Ecco, vorrei che fosse ripristinata la serietà, che lì ci sono tante donne che vivono del proprio lavoro, ecco, se vuole fare un'operazione di consegna di quello stabilimento c'è un marchio, ci sono delle competenze eccezionali, anche lì siamo in grado molto normalmente di trovare delle soluzioni, ma se lui si comporta come si sta comportando mette in discussione anche le possibili soluzioni. Questa dei soggetti che fanno speculazione finanziaria che non ha niente a che fare col lavoro, questo è un problema di tutta Italia. Penso che è giunto il momento di dire, quando arrivano soggetti seri che fanno investimenti, possono arrivare da tutte le parti del mondo, il patto, il legame che fai col territorio deve essere molto solido in forma preventiva, non a piedi lista. Prima, se c'è un'operazione da fare, anche per io sono anche disponibile ad agevolarti per il tuo investimento, per far sì che tu debba arrivare qua e crei lavoro, ma il patto del legame territoriale, perché quando arrivano creano un plus, quando vanno via creano un disastro, non può essere così.